Sì, scatole chiuse. Nessuno di voi, immagino, si sarà particolarmente stupito dell'iniziativa del cardinale Sodano, no? Quello che ha incontrato per un giro di consultazioni, ma forse sarebbe più esatto dire che ha convocato all'apporto i principali leader politici del paese, compreso i candidati alla massima carica dell'esecutivo. Non ve ne sarete stupiti perché la Chiesa, di cui Sua Eminenza è un tanto autorevole membro, ha sempre considerato suo espresso dovere quello di intromettersi nelle faccende mondane, ritenendo evidentemente che l'affermazione del suo fondatore su non essere il suo regno a cosa di questa terra andasse considerata poco più di una battuta di spirito, le cui applicazioni, peraltro, ha provveduto a condannare con il sillabo del Beato Pio IX. In effetti, di trattative del tipo di quelle che Sodano ha evidentemente avviato con Berlusconi e, visto che non si sa mai, anche con Rutelli, se ne sono sempre svolte, dai tempi di Costantino in giù. Forse una volta vi si conducevano con una qualche maggiore riservatezza, ma il mondo cambia, la Chiesa si spettacolarizza e i suoi dirigenti, che sono tutto sommato fatti di carne ed ossa come noi, non sanno resistere alla tentazione di vedere illustrate le proprie iniziative dai media. E con un po' d'ottimismo potremmo persino trovare in questa insolita pubblicità il segno in sé positivo di una trasparenza maggiore, anche se i pessimisti la considereranno più verosimilmente un'ostentazione d'arroganza. Ma la trasparenza è una cosa che ci si può permettere solo quando si è abbastanza sicuri di sé per farlo, per cui le due interpretazioni non sono alla fin fine troppo dissimili. Per quello che riguarda me, a lasciarmi vagamente perplesso è stata soltanto una frase che il segretario di Stato Vaticano si è lasciato sfuggire conversando con i giornalisti che l'hanno variamente riferita nei loro servizi martedì scorso. Oltre a dire che alla Chiesa interessa conoscere i programmi delle forze politiche, che per certi problemi, tipo la difesa della vita e l'educazione dei giovani, ha un interesse più particolare che per altri, che il Papa, che Vescovo di Roma, ha particolarmente a cuore la situazione italiana e desidera conoscerla sempre meglio, tutte affermazioni un po' banali ma in sé ragionevoli, su cui è difficile trovare da eccepire, il Cardinale ha sentito il bisogno di fare una strana precisazione. Ha spiegato di essere piemontese, e infatti, assicurano i biografi, è nato a Isola d'Asti, e di essere quindi molto positivista in faccende del genere. A scatola chiusa, ha aggiunto, nessuno accetta più regali. Non può esserci nessuna meraviglia per questo interesse. Ma per l'interesse forse no, ma per l'espressione sicuramente sì. Nessuno accetta più regali a scatola chiusa? E quando mai? Da che mondo è mondo è proprio a scatola chiusa che i regali si fanno e si accettano. Non soltanto perché chi dona cerca di valorizzare il proprio omaggio con una confezione adeguata e perché il piacere di scartare il pacchetto o di aprire le scatole fa parte integrale delle aspettative di chi riceve un dono, ma perché soltanto a scatola chiusa si esaltano le caratteristiche di qualsiasi regalo. Il dono per sua definizione è qualcosa di gratuito, qualcosa che ti viene offerto per pura benevolenza, a prescindere, in teoria, dal suo valore materiale, perché si sa quello che conta il pensiero ed è proprio occultare questo elemento indiscreto che serve la scatola, come sa qualsiasi confezionatore di pacchetti natalizi. Pretendere che i doni ti siano proposti per così dire a scatola aperta significa riservarsi il diritto di valutarli prima che ti vengano offerti, di decidere in base a un tuo criterio se accettarli o meno, di sovrapporre le tue prerogative ideologiche e sociali a quelle del donatore, rifiutando a priori quel piano di parità che il dono implicitamente comporta, almeno quando è un vero dono, nel senso che esprime un'autentica manifestazione d'affetto, perché l'affetto può esistere soltanto tra uguali. Il cardinale Sodano evidentemente si è sbagliato. A scatola chiusa, secondo l'ombrosa saggezza dei suoi conterranei, non bisogna comprare mai niente. Si sa, il mondo è pieno di peccatori, di uomini malvagi desiderosi di trarre vantaggio della fiducia altrui, ma tu che sai che la fiducia non si identifica con la dabbenaggine, fai i tuoi bravi controlli, ti accerti che il peso sia quello dichiarato, che lo strato superiore di uva matura non cevi una cesta di grappoli vizi, che il vitello non soffra delle principali malattie dei bovini, che il terreno non sia soggetto a ipoteche o minacciato da fenomeni di erosione. Quando a vendere sei tu, a tua volta controlli che le monete che ti si offrono siano effettivamente d'oro zecchino e non di stagno malamente dorato, anche se questo comportasse la necessità di mettere a repentaglio la dentiera mordendole a una per una. E questo non significa, Dio scampi, dubitare della buona fede della controparte, che d'altronde si comporterebbe nei tuoi riguardi nello stesso identico modo. Significa soltanto accettare, adottare delle precauzioni tanto ragionevoli da essere entrate nell'uso universale. Ora questa morale da bottega, questo atteggiamento da sensale di bestiame e di granaglie, esprime senza dubbio una sua ragionevolezza. Ma non sarebbe corretto forse erigerlo a norma universale. In fondo si applica solo ai rapporti mercantili, alla sfera dello scambio interessato. Non dovrebbe avere nulla a che fare con la dimensione del dono. Ma che volete? C'è gente che la dimensione del dono alla categoria del gratuito non riesce con tutta la buona volontà ad avvezzarsi. La chiesa del cardinale Sodano, come è noto, crede nella grazia come manifestazione divina, e in quella parola, senza essere glottologi esperti, tutti riconosciamo la parentela con il gratuito. Ma le sue gerarchie, fatte le debite eccezioni, nella gratuità non hanno mai avuto una particolare fiducia. Fino a pochi secoli fa, in effetti, vendevano in contanti persino il perdono divino e la liberazione delle anime del purgatorio, e al connesso mercato delle indulgenze non hanno mai rinunciato, neanche oggi, del tutto. Quanto ai rapporti con i grandi della terra, quello del mercato è sempre stata la regola. E al mercato appunto non si compra a scatola chiusa, si tasta la merce, la si fiuta, la si soppesa, si cerca se possibile di ottenere un assaggio gratuito. E a questo evidentemente pensava il cardinale Sodano, che pure deve essersi trovato davanti i più remissivi tra i venditori. Tutta gente disposta a concedere gli sconti più favolosi e a offrire le più straordinarie dilazioni di pagamento. Non è necessario essere piemontesi per sapere che chi ti propone delle condizioni troppo favorevoli è persona da cui è meglio diffidare. E i regali che c'entrano? Non c'entrano niente, ve l'ho già detto. Al momento di estrinsecare il suo punto di vista, Sua Eminenza aveva pensato che in bocca a un principe della Chiesa un accetto troppo esplicito al vendere o al comperare sarebbe stato un po' disdicevole, onde il ricorso eufemistico all'espressione che ci ha stupito. In certi ambienti l'abitudine al do ut des è tanto radicata che si finisce col manifestarla anche quando sarebbe più opportuno tenersela per sé. Non c'è da stupirsi. Al massimo, a noi resterà la curiosità di sapere quali garanzie avrà offerto al diffidente prelato il futuro capo del nostro governo, chiunque possa essere, ma state sicuri che questo non ce lo diranno mai.